La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 122. Il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali, sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un consiglio o a una giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro consiglio o ad un'altra giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il presidente della giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il presidente eletto nomina e revoca i componenti della giunta. L'articolo 122 della Costituzione riguarda il modo in cui si elegge il Presidente della Giunta e i componenti della Giunta regionale. Ovviamente la Costituzione lascia spazio alla Regione di scegliere il proprio sistema elettorale e infatti il sistema di elezione del Presidente e della Giunta, nonché dei consiglieri regionali, sono disciplinati da legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. Il comma successivo stabilisce che un consigliere regionale non può essere anche parlamentare, è una ovvia incompatibilità. E molto interessante l'ultimo comma, che riguarda proprio la modalità di elezione del presidente, perché specifica che il presidente della giunta è eletto a suffragio universale diretto, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente. Cioè l'articolo 122 ultimo comma lascia libera la regione di scegliere la modalità di elezione del presidente, se deve essere una modalità di elezione presidenziale, cioè con la elezione diretta del presidente della regione, oppure deve essere parlamentare, nel senso che si elegge l'assemblea e poi sarà l'assemblea a eleggere il presidente. Per ricordare, il sistema dello Stato italiano della Repubblica è un sistema parlamentare, perché noi cittadini votiamo per il Parlamento e poi il Parlamento che individua il governo. Invece altri sistemi nel mondo sono presidenziali, nel senso che i cittadini votano direttamente il loro presidente. Questo accade ad esempio negli Stati Uniti d'America e in parte in Francia. Ecco allora che la regione è un sistema presidenziale, perché la Costituzione prevede di regola che i cittadini eleggano direttamente il presidente e quindi il presidente rappresenta direttamente i cittadini, proprio un'elezione diretta. Cosa che invece può essere derogata perché lo statuto regionale può invece far tornare a un sistema parlamentare.